Dietro la notizia di Gianfranco Fabi. Buongiorno, ben ritrovati a Dietro la Notizia. Oggi la notizia è, purtroppo come tanti altri giorni, la crisi dei mercati finanziari, la crisi delle borse. Avete sentito, Tokyo ha chiuso con un record negativo, ha perso l'11,4% solo in un giorno. Ricordo il numero verde per le vostre telefonate, l'800 24 00 24 e il 349 238 6666 per i messaggi SMS. Abbiamo come ospite Marco Nado. Buongiorno Marco Nado. Buongiorno. Editorialista del Sole 24 ore, docente di economia degli intermediari finanziari alla Bocconi, attento osservatore quindi dei problemi che attualmente stanno sconvolgendo i mercati finanziari e le banche. Io inizierei dalle banche italiane, a cui tu dedichi l'articolo editoriale di oggi sul Sole 24 ore, rassicurando in fondo i risparmiatori. Dice: siamo meno esposti degli altri, le banche italiane concentrate sull'attività domestica non hanno problemi di raccolta e sono comunque più capitalizzate delle altre. Quindi l'Italia è un po' al riparo da questi venti di crisi. Marco Nado. Ma quando la crisi diventa globale, come è già diventata, nessuno può considerarsi al riparo, naturalmente. In qualche modo l'ondata di questo tsunami arriva, è già arrivato in Italia e arriverà almeno sotto forma di rallentamento delle economie mondiali e quindi di minore crescita per noi. Non dimentichiamo che noi negli ultimi 15 anni almeno abbiamo avuto tassi di crescita dell'economia inferiori di almeno mezzo punto rispetto agli altri. Se gli altri hanno crescite negative, noi stiamo sotto di loro. Quindi anche a livello di sistema qualche problema indubbiamente c'è. Ecco, c'è parlato ieri di questo rischio di OPA ostile, anche il Premier Berlusconi ha preannunciato un provvedimento per evitare che ci siano dei gruppi stranieri che, approfittando dei livelli molto bassi della borsa, possono acquistare delle aziende italiane. È un rischio reale, Marco Nado? Questo è difficile sapere. Osservo comunque che in questo momento chi compra meriterebbe una medaglia, insomma, quindi prima di considerarlo come un avido speculatore con le mani adunche ci penserei due volte. Osservo ancora che ce la prendiamo con i venditori o con i compratori, perché prima abbiamo detto che le borse sono affossate dai venditori speculatori che giocano a ribasso. Adesso ci preoccupiamo di quelli che comprano, c'è qualcosa che non mi quadra, insomma. Quindi ecco, rispettare secondo te il mercato deve fare la sua parte, certamente. Forse in questa fase il pendolo del mercato sta oscillando un po' troppo verso il pessimismo, a un certo punto però dovrà pure tornare dall'altra parte, tornare a un recupero. Non è pensabile che le borse continuino a scendere e arrivino a zero. Questo voglio dire, noi abbiamo sottostimato l'impatto della crisi, metto me in prima fila naturalmente, perché abbiamo detto sì, c'è una crisi finanziaria, abbiamo detto dall'estate scorsa, dall'estate del 2007, c'è una crisi finanziaria, ma viva Dio, l'economia mondiale è robusta, c'è la crescita della Cina, dell'India, eccetera, eccetera. Adesso stiamo scoprendo che non è esattamente così, insomma, e che la domanda dei consumatori americani è importante per tutto il mondo e non ci possiamo permettere il lusso di vedere l'economia americana con una significativa recessione. Detto questo, però, i cicli economici fanno parte della vita economica, della vita normale e certo. Alla fine, insomma, anche la ragione potrà di fondo deve emergere. Anche la ragione potrà prendere il sopravvento, esagerare da una parte e dall'altra, certamente è un fattore negativo. Ecco, c'è un SMS di Antonio, se puoi stare ancora in linea, mi chiede se l'Italia, il governo italiano, sta facendo abbastanza e sta veramente coordinandosi con gli altri paesi nell'affrontare questa crisi. Antonio con un SMS, puoi vedere di rispondere. Volentieri, è un buon punto. Io, come altri, avevano auspicato una soluzione europea, che invece non c'è stata, e ogni paese ha preferito andare per la sua strada. Non credo che sia una buona soluzione. E ovviamente, andando ciascuno per la sua strada, le scelte sono diverse da paese a paese. Per esempio, è quello che dico oggi sul Sole, la Francia ha deciso di immettere capitale nelle banche, l'Italia ha detto che lo farà soltanto per le banche in difficoltà, e questo mi sembra una differenza significativa che, a mio parere, corre il rischio di mettere un segno di negativo, insomma, sulle banche che ricorreranno a questa soluzione. Certo, perché una banca dovrebbe in pratica uscire allo scoperto, dire di essere in difficoltà, e questo potrebbe aggravare ancora di più le sue difficoltà. Ovviamente c'è di mezzo un giudizio di inadeguatezza patrimoniale della Banca d'Italia, per essere precisi, però la sostanza mi sembra che non cambi. Ecco, c'è un'altra domanda, mi permetto di rivolgertela attraverso un SMS. Mi dicono: beh, la moneta è un bene pubblico, però le banche, e anche le banche centrali, sono banche private. Non è una contraddizione? È un po' una domanda filosofica appunto sul fatto che la moneta, e io penso che la moneta sia un bene pubblico anche perché il governo, ma anche le banche centrali, hanno il dovere di garantirne il valore, ecco, però è affidata poi ai privati. È una contraddizione, Marco Nado? Non è esatto che siano privati, insomma, le banche centrali sono istituzioni particolari di natura pubblica, a cominciare dalla Banca d'Italia e dalla stessa BCE, che è riconosciuta nel Trattato europeo, quindi nella massima carta costituzionale che l'Europa si è data. Sono investite di una funzione di pubblica utilità. Si è cercato, e questo è il senso della domanda, di renderle quanto più indipendenti dal potere politico, perché si aveva paura, come era successo, che la politica mettesse le mani sulle casse della moneta, insomma. Ecco, no? Puoi stare un attimo ancora in linea, forse abbiamo Giuseppe da Milano che vuole trattare lo stesso argomento. Pronto? Buongiorno. Lei al suo ospite. La mia domanda è questa: in che cosa consiste l'autonomia della Banca d'Italia? Nel tenere Bordone al governo, al ministero, al ministro del tesoro? Non dovrebbe avere una posizione autonoma? Me lo spieghi, onestamente, cosa consiste l'autonomia della Banca d'Italia? In che cosa consiste? Grazie, mi scusi. Grazie mille per la domanda. Appunto, allora, Marco Nado, in che cosa consiste l'autonomia della Banca d'Italia? Viene esattamente al momento giusto, perché quello che stavo dicendo, abbiamo garantito l'indipendenza dal potere politico. Non credo che per nessuna banca centrale, e tantomeno per la Banca d'Italia, si possa dire che tiene Bordone alla politica, e ne abbiamo avuto qualche evidenza in negativo noi nel 2005, quando accaddero quegli avvenimenti famosi. C'è la massima indipendenza sia a livello di BCE sia a livello di Banca d'Italia. Quello che si può dire, non per singole istituzioni, ma in genere per le autorità di vigilanza, è che sono stati, rendendosi indipendenti dalla politica, sono state più pronte a cedere alle richieste del mercato, diciamo, degli operatori. La crisi è venuta anche dal fatto che la Banca Centrale Americana ha inondato di liquidità il mercato per almeno 10 anni, e in questo ha consentito alla finanza di crescere in modo smisurato e di fare profitti record. Il problema è partito dagli Stati Uniti, questo non dobbiamo dimenticarlo. Ancora un attimo di pazienza, Marco. Ilario da Modena, rapidamente. Sì, prego. Prego. Posso parlare? Prego, prego, dica. Buongiorno, mi chiamo Ilario Pagani, telefono da Modena. La domanda che volevo fare è la seguente: il governo italiano garantisce che le banche del nostro paese non possono fallire, ma se fanno un abbattimento di capitale sociale azzerandolo è come se fallissero, se l'azionista non partecipa alla sua ricostituzione. Grazie per una risposta. Grazie, è una domanda abbastanza tecnica. Allora Marco Nardo, chi meglio di te può rispondere? Se azzerano il capitale è come se fallissero? Se lo facessero è come se fallissero, ma non c'è bisogno di farlo perché, come abbiamo detto, le banche italiane sono solide, hanno patrimoni largamente positivi, si è parlato dell'opportunità a livello internazionale di mettere nuovo capitale, ma non di ricostituire un capitale che si è azzerato. Certo, grazie mille Marco Nardo, grazie di essere stato con noi. Io ricordo gli ascoltatori anche per la seconda parte, per le vostre telefonate, l'824 0024, e pregherei Antonio da Alessandria di restare un attimo in linea, lasciamo il tempo al traffico, ci risentiamo tra pochi minuti. Che strada fa? Sul tratto veneto della 4 ci sono ancora 5 km di coda tra Dolomirano e Padova Est in direzione Padova. Si è ribaltato un mezzo pesante proprio all'altezza del bivio per la 13, di conseguenza i veicoli in viaggio su questa autostrada attendono in coda in emissione sulla 4. Andiamo intorno a Bologna, c'è un veicolo in avaria sulla 14 Adriatica, si sono formate code tra Borgo Panigale e il bivio per la 13 in direzione Ancona con ripercussioni sul ramo Casalecchio, e in città la circolazione in progressivo aumento in zona Fiera dove prosegue il SAIE. 2 chilometri di coda sulla 22 del Brennero tra Rovereto Sud e Alavio in direzione Modena, e code anche verso il Brennero tra Chiusa e Bolzano Nord e tra Nogarolo e Rocca, il bivio per la 4, il tutto abbiamo detto in direzione nel Brennero, legate queste code ai lavori in corso. Sulla 4 di conseguenza ci sono code per rimettersi sulla 22. Proseguono le difficoltà sulla 10 Genova 20 miglia tra Renzano e il bivio per la 26 dei trafori in direzione Genova perché la carreggiata è parzialmente occupata da del materiale. Attenzione, nebbia ancora presente sull'autosole tra Roncobilaccio e Barberino, intorno a Torino sul raccordo Ivrea-Santià, sulla 33 Asticuneo tra Marene e Cherasco, visibilità ridotta anche sulla 4 tra Cessalto e Padova, e al sud sulla 14 Adriatica tra Gioia del Colle e Taranto. Chiudiamo con una notizia che arriva dalla città di Napoli. A breve, intorno alle 9, la circolazione potrebbe rallentare nel centro cittadino a causa di una manifestazione di protesta con corteo da Piazza Mancini fino a Piazza del Plebiscito. È tutto, noi ci risentiamo tra un'ora. Promo 24. Impresa cooperativa è lavorare insieme pensando al futuro. Dall'energia vitale del gruppo e dalla capacità di operare in rete nasce la creatività, si alimenta l'innovazione e si contribuisce al successo dell'impresa. La Camera di Commercio di Mantova e le Camere di Commercio della Lombardia, in collaborazione con Conf Cooperative e Lega Coop della Lombardia, danno appuntamento al Festival della Cooperazione, la prima edizione di un evento aperto a tutti per scoprire un modo dinamico di essere impresa, produrre innovazione, sviluppo, cultura e solidarietà. Dal 21 al 26 ottobre a Mantova vi aspetta incontri, dibattiti, testimonianze con i protagonisti dell'impresa, della politica, della finanza, della cultura, per conoscere come l'impresa cooperativa sia sempre più energia viva. Informatevi su www.promoimpresaonline.it. Dietro la notizia. Grazie, bentornati al nostro appuntamento. Abbiamo pochi minuti fino alle 9, poi ci sarà Viva Voce dedicato alle elezioni americane. Stiamo parlando della crisi dei mercati finanziari, abbiamo preso spunto, abbiamo avuto ospite nella prima parte Marco Nardo per il suo articolo di fondo sul Sole 24 Ore di oggi su banche e Stato, e ci sono proprio telefonate su questo argomento. Antonio da Alessandria, buongiorno. Buongiorno a lei. Io vorrei fare una riflessione di questo genere. Io sono un risparmiatore che non ha investito in derivati, in azioni, in obbligazioni, ho un conto corrente. Ora, non capisco perché io devo aumentare il mio debito pubblico, la mia fetta di debito pubblico, per garantire i risparmi di coloro che hanno investito in derivati, obbligazioni, azioni e quant'altro, portando al fallimento alcune banche, quando tutto questo sistema non è altro che una casa da gioco, un casino. L'unica scorrettezza che c'è stata fatta alle banche è non dire che la roulette era truccata, cioè che alcuni prodotti erano prodotti tossici, così come sono stati definiti. Allora, chi sottoscriveva ogni forma di investimento, sapendo che andava comunque a guadagnare un qualcosa, sapeva che era di fronte a un rischio, ha giocato col proprio denaro. Perciò a questo punto io non considero giusto recuperare il denaro di queste persone che per guadagnare maggiormente hanno messo a rischio il loro capitale. Non vedo il perché noi, chi è un risparmiatore che ha avuto il proprio denaro sul proprio conto corrente, debba vedersi aumentata appunto il debito pubblico, per poi se lo Stato garantisce anche il denaro di questi risparmiatori che hanno perso tutto in borsa piuttosto che in altre forme di investimento, lo Stato siamo sempre noi, cioè sono gli risparmiatori che devono pagare. La ringrazio molto, ovviamente io penso che lo Stato non garantisce che chi ha perso dei soldi in borsa vede restituiti questi soldi, non si tratta di questo, non si tratta di intervenire per sostituirsi appunto al mercato, che il mercato fa la sua parte, si tratta da parte dello Stato di intervenire per rimediare a una situazione di emergenza in cui ci si è trovati in una crisi di liquidità, perché i prestiti tra le banche erano praticamente bloccati per una crisi di fiducia. Quindi non si tratta di fare delle offerte finanziarie a chi ha perso dei soldi, si tratta di intervenire per garantire che il mercato possa funzionare, che il mercato possa fare la sua parte. Quindi non si tratta di togliere i soldi a chi non ha giocato in borsa per darli a chi ha giocato in borsa. A chi ha giocato in borsa, e si dice giocato in borsa perché in borsa in effetti c'è una specie di scommessa, una scommessa sul fatto che i titoli possono salire e scendere, quindi qualcuno l'ha paragonata a una casa da gioco. Non è forse così forte il paragone, la borsa è un elemento fondamentale dell'economia, anche se ha degli aspetti di scommessa, e gli aspetti quindi che devono essere compresi anche sul fatto che uno può guadagnare ma può anche perdere. Però gli interventi statali in questa fase non sono fatti per compensare le perdite di chi appunto ha giocato in borsa, ma sono fatti per garantire la stabilità del mercato, per garantire il fatto che ci siano degli operatori che nel mercato agiscono, possono continuare ad agire, possono continuare a garantire appunto il flusso finanziario e anche quei risparmi come i conti correnti, che sono appunto un po' la base dei risparmi, ma anche dell'operatività quotidiana delle persone e delle imprese. Quindi non si tratta appunto di coprire delle perdite speculative, si tratta di garantire la regolarità dei mercati. Sentirei Nuccio da Bari, buongiorno. Buongiorno a lei. Senta, io ho solo due domande. Voglio sapere come mai non si fa riferimento ai fondi pensione e se dobbiamo aspettarci di ritrovarci i nostri risparmi della pensione prosciugati da questa crisi. Grazie. Ma guardi, io spero proprio di no. Ovviamente la crisi, come dicevo prima, adesso è molto forte, ma dovrebbe ritornare ad essere alla normalità, ovviamente dopo aver raggiunto certi eccessi. È proprio quello lo scopo di salvaguardare la stabilità del mercato, che si stanno facendo anche degli interventi statali. I fondi pensione sono tra gli strumenti più garantiti, perché i fondi pensione in gran parte hanno l'obbligo e sono sotto sorveglianza di investire i fondi appunto che sono destinati per la previdenza integrativa, la previdenza che si aggiungerà alla previdenza statale quando le persone andranno in pensione, hanno l'obbligo di investire in strumenti finanziari solidi, garantiti, stabili, quindi soprattutto titoli di Stato, soprattutto titoli che hanno appunto la garanzia di mantenere il loro valore nel tempo, perché emessi da istituzioni affidabili come può essere la Banca Europea degli Investimenti. Quindi i fondi pensione hanno una tutela particolare, hanno un controllo particolare. Ovviamente una piccola parte degli investimenti dei fondi pensioni sono fatti anche in azioni, per cercare, come è avvenuto con successo negli anni scorsi, di sfruttare la crescita dell'economia e quindi di avere anche dei guadagni aggiuntivi. Però è solo una piccola parte, che ovviamente difende da fondo pensione a fondo pensione. In questa fase è chiaro che i rendimenti dei fondi pensione sono più bassi di quelli che sono stati negli anni passati, ma nel lungo termine la storia insegna che appunto i rendimenti dei fondi pensione sono sempre positivi e possono garantire un andamento regolare anche nel versamento poi delle quote sottoscritte, quando appunto si incasseranno periodicamente queste quote da chi è in pensione. Ovviamente se tornerà una stabilità dei mercati, cosa che tutti ci auguriamo. Gianluca da Roma, buongiorno. Buongiorno. Senta, io ho un forte dubbio negli ultimi mesi, ma visto che ormai il prezzo dei titoli si è abbassato così tanto, Ma qualcuno ai tempi, cioè mesi fa, un anno fa, due anni fa, ha venduto a quei prezzi, quindi significa che liquidità in giro c'è. Cioè, certamente. Non è che qualcuno è scappato con la cassa? No, la ringrazio, siamo in conclusione, la liquidità indubbiamente c'è, la liquidità però è un po' bloccata, è un po' congelata, si tratta di far ritornare la fiducia e far ritornare la circolarità della liquidità, non solo per gli investimenti ma anche per le normali transazioni finanziarie, proprio a questo puntano gli interventi delle banche centrali e dei governi. Io ringrazio tutti, ringrazio la regia, l'appuntamento è per domani.